Il mondo intero ormai li conosce come sassi. Li ha giustamente eletti patrimonio dell'umanità, custoditi come sono nelle viscere della Basilicata, che è anche il ventre della cultura mediterranea. Sono ovviamente i sassi di Matera. Quello che forse il mondo non sa è che i sassi, quel sistema di case scavate nella pietra uniche al mondo, in realtà non sono soltanto a Matera. Io e Nina scorriamo insieme le foto ingiallite di Andrea Antica. Quella che vedo a un primo sguardo è un ammasso di case addossate, di tetti posati l'uno sul fianco dell'altro e poi cumuli di macerie. Ah, è largo grotte, quello, dice Annina. Grotte. Eh sì, grotte. La gente ci viveva, una miseria che c'ho ancora dentro gli occhi. Annina mi ha già parlato delle condizioni di vita dei contadini meridionali, che fino alla Seconda Guerra Mondiale vivevano a centinaia in abitazioni sotto il piano degli edifici, quelli che qui si chiamano bassi, ambienti umidi, illuminati da finestre poste sul piano della strada, che famiglie anche numerosissime condividevano con il bestiame da soma. Ma davanti a questa foto scopro che ad Andria erano diffuse condizioni di vita ben peggiori. Quello che gli andriesi chiamano largo grotte è ciò che resta oggi, uno slargo, appunto, del primo nucleo abitativo della città, sorto a ridosso di un gruppo di ipogei carsici noti sin dall'antichità con il nome di Grotte di Sant'Andrea. Questo nome deriva probabilmente da un'antica chiesetta intitolata al Santo, che era conosciuta già nel X secolo d.C. e che era collocata sul punto in cui, secondo la leggenda, i santi Pietro e Andrea si separarono dopo i lunghi anni di evangelizzazione comune. A ridosso di questo luogo di culto si andarono creando spazi sempre nuovi, scavati in quello stesso ammasso di rocce e progressivamente abitati da chi non poteva permettersi più che un rifugio di fortuna. Nel corso dei secoli, dunque, sotto gli occhi impotenti di Sant'Andrea, si andò formando un vero e proprio alveare di case ammassate l'una sull'altra e l'una dentro l'altra. Grotte senza scoli per l'acqua, né acqua corrente o vie di fuga in caso di incendio, grotte accessibili da altre abitazioni di mattoni, divennero così delle case. Erano spazi bui, con pareti di roccia che trasudavano umido e tanfo insopportabile. Erano rifugio di bambini scalzi, anziani malati e animali. Non si può credere, per Andria come per Matera, che quel modo di abitare sia andato avanti in Italia fino a così poco tempo fa. Pare che una prima bonifica sia stata compiuta all'inizio del Novecento, ma il problema delle grotte e delle condizioni di vita della popolazione di Andria fu posto per la prima volta ufficialmente durante il fascismo. Lo Stato intervenne per concedere ai residenti del malsano rione una decorosa abitazione. Annina era bambina, ma se lo ricorda, tutti sapevano. Quasi 1000 persone vivevano in condizioni igieniche inaccettabili quando, tra il 1936 e il 1938, furono costruite nuove palazzine destinate all'assegnazione in altre zone della città. Il processo di sanificazione, però, fu interrotto dalla guerra e venne completato solo negli anni 50, quando, in un celebre documento, il professor Salvador Liddo, ufficiale sanitario, relazionò a proposito dell'indagine condotta in quel rione. Il professore attestava la oggettiva e totale mancanza di igiene per i residenti, il cui numero era peraltro aumentato a causa della guerra. Fu così evacuato il rione e con una decisione ancora oggi molto controversa, le abitazioni a livello stradale furono rase al suolo, i vicoli che si addentravano nel sottosuolo furono occlusi, la chiesa di Sant'Andrea distrutta. C'è chi ha denunciato la miopia di quell'amministrazione che non volle preservare un bene storico millenario, il cui primo nucleo abitativo risaliva addirittura all'epoca preistorica. Ma guardare Annina e a guardare il senso di vergogna per quella povera gente, capisco il senso più umano di quell'operazione, che forse sì, fu poco lungimirante per il turismo, ma che allora aveva l'urgenza di cancellare, di dimenticare, di liberare per sempre Andria da quella miseria annidata nelle rocce. Thank you.